ultime due lezioni, di un po' di sintesi, però anche con il desiderio di provare a dare un pochino una visione su alcuni punti, perlomeno raccogliere un po' gli elementi positivi anche emersi nell'ambito del corso per spiegare meglio appunto determinati punti che risultano un po' più difficili da comprendere un po' nel contesto nostro attuale. Allora, io cercherò poi di darvi per iscritto anche il contenuto di queste ultime due lezioni. Traiamo un attimo le fila per arrivare poi a anche un pochino alla parte un po' propositiva. La dottrina del peccato originale si è andata sviluppando nel tempo, nell'ambito della riflessione della Chiesa, della tradizione, e abbiamo visto come dall'epoca dei padri, in cui quasi non si parlava del peccato originale, perlomeno del peccato di Adamo in quanto causa di conseguenze per tutta l'umanità, non se ne parlava molto, si è cominciato a parlarne in opposizione alle dottrine gnostiche, dualiste anche sull'origine del male, per dire che il male non viene da Dio né da un principio uguale a Dio, però negativo, cattivo, ma è unicamente frutto dell'abuso della libertà da parte dell'uomo creatura, spinto a questo, ma non forzato, diciamo in modo necessario, dal demonio, caduta degli angeli e poi caduta dell'uomo. Questo ha fatto entrare nell'uomo e nel mondo il male, la miseria, la sofferenza, la morte. E Agostino, in polemica non tanto con gli gnostici quanto con i pelagiani, con l'ottimismo dei pelagiani che negavano in fondo la necessità della redenzione di Cristo, o perlomeno non la vedevano così fondamentale per ogni uomo, Agostino dice la redenzione di Cristo è fondamentale, essenziale per la salvezza. Perché? Allora, come diciamo premessa, afferma con forza e con decisione che tutti, a causa del peccato di Adamo, nasciamo con un peccato ereditato. E questa affermazione di Agostino è che Cristo è l'unico salvatore, lo è di tutti senza eccezioni, è basata sulla tradizione della Chiesa fino a lui, sia di tipo dogmatico sia di tipo liturgico, cioè il battesimo veniva dato anche ai bambini appena nati e quindi avevano bisogno della remissione dei peccati, come si dice nella formula del battesimo. Quindi Agostino dice: se questo è vero, allora effettivamente tutti hanno bisogno, tutti hanno peccato. E poi la tradizione anche, diciamo, dogmatica, appunto sulla salvezza che in Cristo otteniamo tutti, l'universalità della salvezza in Cristo, basandosi soprattutto su San Paolo, sulla lettura che San Paolo fa della creazione in Genesi. Gli aspetti fondamentali della dottrina di Agostino sono ripresi lungo tutta la tradizione fino a Trento. Però invece un certo accento che Agostino metteva sulla umanità come massa dannata, lui anche a causa della polemica che c'era e forse anche un po' a causa della sua esperienza personale di conversione che laboriosa, vede l'umanità come effettivamente appunto massa dannata, corrotta, che ha assoluto bisogno della salvezza di Cristo, ma descrive anche con termini piuttosto drammatici e negativi la condizione dell'umanità, e soprattutto mi sembra che accentui il carattere anche di colpa che il peccato originale ha in ogni singola persona. Dice per esempio: giusto è Dio, Dio è giusto, e quindi se non li sapesse rei, gli uomini, se non li sapesse colpevoli, non lascerebbe che coloro che nascono né nascessero miseri né lo diventassero. Cioè, se Dio non sapesse che hanno effettivamente colpa, non permetterebbe neanche che nascessero persone che poi sono destinate alla condanna. Quindi hanno colpa, e Dio, ed è una condanna quella che ricevono, quindi la pena eterna, anche i bambini morti senza battesimo. Noi oggi possiamo dire: Agostino forse non aveva anche gli strumenti teologici per poter intravedere perlomeno la possibilità di salvezza anche per chi non riceveva il battesimo. Oggi questo senz'altro è molto più facile poterlo vedere. Il Concilio di Trento non fa propria questa visione estremamente negativa dell'umanità, quindi fa proprio il fatto che Cristo è l'unico salvatore, fa proprio la necessità della salvezza in Cristo, ma si mantiene equilibrato tra quell'ottimismo dei pelagiani che dicevano no, l'uomo anche da solo se si impegna ce la può fare, e invece la visione molto negativa di chi? Dei riformatori protestanti, che vedevano l'uomo come diciamo totalmente corrotto, la natura umana totalmente corrotta. Il Concilio si mantiene, è per esempio equilibrato, e non parla di colpa per Adamo, per il resto dell'umanità non parla di colpa. In un punto solo dice che la colpa del peccato originale è rimessa attraverso il battesimo, il reatum del peccato originale. E, però sicuramente non parla di massa dannata, non parla di condanna, non parla di condanna per gli uomini in seguito al peccato originale. Concilio di Trento. Cioè già Trento, rispetto alla visione di Agostino che era... parlava di colpa, parlava di condanna, non solo per Adamo, ma per l'umanità, per gli uomini che nascono con il peccato originale. Il Concilio di Trento soprattutto afferma la necessità dell'unico rimedio che è costituito dal merito di Cristo, quindi la necessità di Cristo. E per quanto riguarda il peccato originale in noi, quello originato, solo in un punto parla di colpa, non parla di tanto di punizione, di dannazione, eccetera. Questo certo anche in opposizione a Lutero, che utilizzava tutti... Questo anche in opposizione a Lutero, che se vogliamo in questo seguiva della tradizione agostiniana la parte più... neanche tanto Agostino, ma proprio la parte che interpretava in modo più negativo. Lutero parla del peccato originale nell'uomo come proprio una cosa che lo rende l'uomo... uno schifo, cioè proprio l'uomo non c'è niente di buono nell'uomo, invece sappiamo che non è così. I pelagiani invece dicevano che il bambino nasceva sano, nella stessa condizione di Adamo ed Eva prima del peccato. Dopo ammettono che perlomeno il fatto di dover morire e la debolezza fisica è una conseguenza del peccato originale, lo ammettono dopo un concilio che li bastona, ma però non continuano a non ritenere per esempio che ci sia un vero peccato nell'uomo. E bene, se guardiamo dopo Trento abbiamo visto le opinioni un po' più attuali, teologiche e non teologiche. E si vede che emergono un po', io ho evidenziato almeno due critiche fondamentali, due punti che sono: uno, che appare poco accettabile l'idea di una colpa o di una punizione ereditata dai nostri progenitori, noi la ereditiamo una colpa, le cui conseguenze poi sono anche molto drammatiche, perché uno vede che nel mondo c'è un sacco di male, ci sono miserie morali, ci sono discordie, divisioni, e poi soprattutto forse quello che fa più scandalo è che sempre le conseguenze del peccato originale sono anche la sottomissione a delle forze naturali che sono cieche, e quindi sono anche inumane certe volte. Con Don Roberto l'altro giorno, parlando, diceva quello che poi sentiamo tante volte dire: di fronte alla morte di una persona cara, magari una morte soprattutto se in attesa o se prematura di un bambino, cioè chi non ha sentito dire questo non è giusto, ma che male aveva fatto, ma perché Dio permette questa cosa? Certo, qui la risposta è dire: guarda, è conseguenza del peccato originale, uno dovrebbe poter spiegare molto, comunque ci rendiamo conto che insomma è un punto che ci provoca, questo, a cercare di spiegarlo in un modo, nel modo migliore possibile. Quindi uno è questo, l'idea di una colpa ereditata è difficile da accettare. In effetti vedremo anche che le cose non stanno proprio così. La seconda obiezione veniva più dall'ambito scientifico e abbiamo visto che obiezioni possono essere varie, però a me sembra di identificarne soprattutto una. È difficile concepire per la mentalità scientifica moderna uno stato originario dell'uomo, di Adamo ed Eva, come immuni dalla morte. Immuni dalla morte, perché uno pensa nei termini in cui conosciamo il funzionamento della materia, dei corpi, come si fa a essere immuni dalla morte in questo mondo retto da queste leggi fisiche, chimiche, eccetera. E quindi capire come Adamo ed Eva potessero essere liberi dalla sofferenza, dalla morte, sembra una cosa molto difficile. Altre questioni riguardano il monogenismo, cioè l'origine da una sola coppia, però a mio parere queste forse sono meno diciamo impegnative, anche se sono forti, rispetto a quella dello stato originale, anche perché, come abbiamo detto, la scienza non riesce a dire in modo chiaro abbiamo trovato le ossa del primo uomo e della prima donna, oppure no, ce n'era anche quest'altro e quest'altro, che vivevano insieme nello stesso tempo, cioè, non si può, quindi la scienza su questo può fare ipotesi che sembrano più o meno contraddire l'idea di una origine dalla prima coppia, ma ecco, non si può arrivare a negare assolutamente. Allora, però, ecco, l'idea dello stato, la condizione originaria dell'uomo, come possiamo un po' comprenderla e descriverla? Bene, allora, vediamo come si può, anche raccogliendo gli spunti positivi emersi, tentare un pochino una risposta a queste due obiezioni. Già al Concilio di Trento vi dicevo che rispetto alla tradizione agostiniana ha espresso il dogma del peccato originale, soprattutto originato, quello che è in noi, in un modo che non accentua il senso della colpa o dell'ira di Dio su di noi. Ne parla riguardo ad Adamo, ma su di noi no. Se uno guarda il Magistero recente, anche quello che hanno detto Giovanni Paolo II nelle sue catechesi, Benedetto XVI, anche in quella catechesi che vi ho citato, che però anche in alcuni altri spunti che ricordo suoi, brevi, ma ecco, non accentua l'idea della colpa. Se guardiamo poi al catechismo e al compendio promulgati ciascuno dei due sotto nel pontificato di Giovanni Paolo II e rispettivamente di Benedetto XVI, si vede che c'è una grandissima cura proprio nel precisare che il peccato originale in noi è un peccato in senso analogico, non ha carattere di colpa personale, è uno stato e non un atto. Allora, a me sembra che, alla luce di questo, una visione del peccato originale in noi, inteso in termini di colpa, punizione, condanna, colpa, punizione, condanna, e D'altra parte invece Cristo che ci dà il rimedio, la remissione della colpa, della condanna, mi sembra che non sia la descrizione migliore che possiamo fare. Colpa, remissione, condanna, punizione e remissione grazie ai meriti di Cristo. Allora, quale può essere un'espressione più adeguata di questo mistero, che resta un mistero, però che possiamo in parte almeno illuminare? Potrebbe essere questa: dire Dio ha pensato e voluto gli uomini a partire da Adamo in una relazione personale con lui. Il peccato originale è stato rottura di questa relazione, una rottura operata da Adamo ed Eva e che Dio poi ha permesso che avesse delle conseguenze reali anche per tutta la loro discendenza. Poi vedremo anche alcuni motivi per cui poteva essere conveniente che Dio permettesse che anche per noi avesse una conseguenza. Però vediamo un attimo adesso. Quindi il peccato originale è come rottura della relazione con Dio, che Dio aveva, in cui aveva stabilito l'uomo dall'inizio. E tutti nasciamo parte della famiglia di Adamo privi di questa relazione. Ma di fronte a questa situazione, ecco, Dio che cosa fa? Dio ci offre in Cristo e in modo definitivo la relazione con Lui. In modo definitivo nel senso che vale per tutti, nel passato, nel presente, nel futuro, tutti gli uomini. Ed è anche un'offerta incondizionata. Cioè che Dio rivolge anche all'uomo peccatore, cioè non solo a chi cerca di comportarsi bene, no, anche all'uomo peccatore. Gesù sulla croce dice anche a quelli che lo crocifiggono, in fondo dice, ecco, io vi voglio bene, vi perdono e vi voglio con me. L'unica condizione che resta è quella posta dalla persona, dall'interessato, ma da parte di Dio è un'offerta di relazione incondizionata, definitiva. Allora, il peccato originale potremmo leggerlo e comprenderlo più che come colpa dell'uomo e quindi bisogno di remissione di questa colpa. No, leggerlo come rottura della relazione con Dio da parte dell'uomo e offerta della definitiva della relazione con Lui da parte di Dio. Questo cosa comporta? Questo cosa comporterebbe? Comporta pensare che il peccato originale è privazione della in noi. Non è tanto una colpa, è la privazione della relazione che Dio gratuitamente aveva dato ad Adamo e che invece di cui noi nasciamo privi. Relazione che è un dono soprannaturale, che in realtà quando parliamo di relazione in fondo diciamo grazia, cioè la grazia, essere in grazia di Dio è ciò che realizza la relazione personale nostra con Dio, perché conosciamo Dio, lo amiamo personalmente. E il peccato originale quindi ha fatto sì che noi, ecco, non ci ritroviamo come data questa relazione, ne siamo privi. Questo però non ci fa apparire agli occhi di Dio come dei reietti. Un po', appunto, se uno legge alcuni passi di Sant'Agostino, sembra che l'umanità agli occhi di Dio sia una cosa, appunto, massa dannata, eccetera. No, invece non siamo dei reietti meritevoli di pena. In realtà, proprio perché invece Dio ci ama, ci fa nascere, e quello che Lui vuol fare è stabilirci in questa relazione con Lui in Cristo. Allora, quindi se noi vediamo le cose un po' sottolineando questo, dire no, peccato originale fa sì che poi indagheremo appunto perché secondo me è molto importante capire un po' i motivi per cui è conveniente che il peccato originale si sia trasmesso, eh? Per cui noi nasciamo così. Però senz'altro a questo livello possiamo dire noi non siamo in uno stato di colpa, non possiamo dire io ho peccato in Adamo, non possiamo dire questo, perché sarebbe un po' una visione un po' mezzo platonica alla Origene, che diceva no, le anime preesistono, siccome erano tutte in quella di Adamo, allora ha peccato lui e abbiamo peccato anche noi. Ma no, non è così, cioè, noi non abbiamo peccato noi, semplicemente quello che succede è che nasciamo privi, privati della grazia, e di questa grazia abbiamo assoluto bisogno, questo è verissimo, cioè, abbiamo bisogno, perché senza la relazione personale con Dio, noi poi la salvezza che cos'è se non l'essere in una relazione personale di conoscenza e di amore con Dio, con le tre persone divine, e essere in comunione con Dio. Quindi è vero che noi da soli non possiamo salvarci. Quello che non è vero è che, stando così le cose, Dio semplicemente ci condanna per una qualche colpa. No, invece Dio farà di tutto per portarci a conoscerlo e ad amarlo, chiaramente, se noi vogliamo. Scusami, sì. Ma si potrebbe fare un'analogia, dicono, diciamo, che non solo anima, che però forse può rendere l'idea. In fondo, due genitori malati di AIDS trasmettono, no, ai figli questa malattia, se vogliono avere figli, e i figli in tal caso certamente non sono colpevoli di come è nata questa malattia, però hanno contratto le conseguenze di questa malattia, no? Quindi in qualche modo, diciamo, sono contagiati tutti quanti in maniera ulteriore. Quindi è un'analogia che in parte è contratto anche qui, diciamo, qui è contratta la malattia, lì è contratto in qualche modo. Regge pienamente. No, quello a me adesso in questa fase, ecco, poi la domanda sarebbe: ma se Dio può evitare che il figlio nasca con la malattia, perché non lo fa? Sì. Questa è la grande domanda a cui io abbozzerò qualche risposta domani, perché non arriveremo più adesso. Però per ora, già il fatto, cioè, mentre Agostino tutto sommato diceva: beh, se lui ha la malattia, vuol dire che è colpevole. Dio non è, e Dio è giusto se lo manda all'inferno. Lui sa perché, sa che è colpevole ed è giusto che lo mandi, che questo vada all'inferno. Ecco, noi penso, questo non, così non lo, cioè proprio non lo possiamo dire. Diciamo, no, lui se ha la malattia ha bisogno di essere curato dalla malattia, da solo non lo può fare. Ma l'intenzione di Dio è di curarlo, a qualunque costo. Lui potrà rimanere malato se vuole rimanere malato, però Dio lo vuole curare, non lo manderà invece all'inferno perché ha una malattia. Questo mi sembra che sia una sensibilità molto chiara, presente anche nella, diciamo, nei documenti del Magistero recente. Certamente occorre che noi occorre pensare che Dio sia capace di arrivare a ogni uomo anche al di fuori del canale sacramentale. Questo nel senso che il problema famoso dei bambini che muoiono senza avere il battesimo, o dell'uomo che vive senza entrare in contatto con il Vangelo, almeno in un modo significativo, perché è chiaro che di Cristo tutti avranno sentito parlare, però come se io sento parlare di Buddha, non mi importa niente. Quindi nel caso di queste persone, ecco, noi dobbiamo pensare che Dio è capace di entrare in relazione con ogni uomo, anche appunto non raggiunto direttamente dal Vangelo. Mi sembra molto interessante che in questo documento della Commissione Teologica del 2010, internazionale del 2010, sui bambini senza battesimo, uno degli argomenti più forti per cui si dice noi possiamo sperare che Dio sappia operare la salvezza di questi bambini, è questo. Cita una frase del Concilio Vaticano II molto bella, Gaudium Spes 22, che è un punto che già c'ha il punto famoso di Dio che rivela l'uomo all'uomo, Cristo rivela l'uomo all'uomo, ma delle cose molto belle. E la Commissione Teologica dice la seguente affermazione, cioè poi citerà il Concilio, in particolare sembra avere una portata veramente universale. Quale affermazione? Questa che adesso vi leggo, Gaudium Spes 22. Cristo è morto per tutti e la vocazione ultima dell'uomo è effettivamente una sola, quella divina. Perciò dobbiamo ritenere che lo Spirito Santo dia a tutti la possibilità di venire associati nel modo che Dio conosce al mistero pasquale. Cioè, come dire, Cristo è morto per tutti, e la salvezza per un uomo non può essere altro, non c'è altra salvezza, vocazione, che quella soprannaturale, divina. Quindi non c'è un altro, una felicità naturale, come un pochino si era ipotizzato anche con l'idea del limbo. Non c'è una vocazione dell'uomo, una felicità che non sia quella piena, definitiva, la vocazione divina, diciamo. Perciò, se è morto per tutti e tutti hanno come vocazione quella a stare con Dio per sempre, dobbiamo ritenere che lo Spirito Santo dia a tutti la possibilità di essere associati al mistero pasquale, cioè di entrare in contatto con Cristo. Dice, nel modo che Dio conosce, quindi in un modo anche misterioso, misterioso, vabbè, sembra, cioè, senz'altro non sacramentale, ma Dio è più intimo a me di qualunque altra cosa. Io esisto in questo momento perché Lui mi vuole, quindi che Dio abbia la possibilità di dialogare con me anche al di fuori della via sacramentale, questa è una cosa. Quindi l'offerta di salvezza di Dio arriva a tutti. Che offerta è? Quella della relazione con Lui, di una relazione di conoscenza e di amore. Per alcuni uomini sarà evidentemente una conoscenza, come dire, quando uno fa il bene, convinto che sta facendo la cosa giusta, sta dicendo un sì a Dio in fondo, perché Dio è il bene, la volontà di Dio non è altro che quello, che tu sia buono nel fare il bene, e Dio sappiamo che dà anche la sua grazia, non santificante, ma le grazie attuali le dà anche appunto quando non siamo in grazia, quindi insomma il Signore veramente arriva alle persone. Quindi possiamo dire che una persona che non conosce Dio, ma che si sforza di comportarsi eticamente bene per la sua coscienza, di fatto si avvicina, certo senza la grazia piena di Dio non può arrivare in paradiso, insomma, con la sola etica, però indubbiamente si mette nelle condizioni di essere salvato, pur magari non conoscendo o avendo una... Certo, non solo lui, ma è che Dio stesso agisce per aiutarlo a fare questo. Cioè, non è che il Signore mette l'asticella qui e dice, vediamo un po' chi riesce a saltarla. Tu no, non ce l'hai buttata giù, mi dispiace. Cioè, Dio fa il tifo per noi. Cioè, quindi, con la sua grazia, aiuta la persona non credente a rispondere alla sua coscienza, che gli dice fai questo e non fare questo. Anche c'è un'altra frase nel Concilio molto esplicita proprio in questo senso, sulle persone che si sforzano di vivere secondo il dettame della loro coscienza, e possiamo ritenere senz'altro che il Signore non negherà la sua grazia perché queste persone si salvano. Per vie che non conosciamo, dice il Concilio, per vie che non conosciamo, dà il Signore la sua grazia, no? In questo che ho citato dice nel modo che Dio conosce, le persone vengono associate a... Nell'altra citazione dovrei cercarla, quella in cui dice che appunto coloro che si sforzano di vivere secondo, diciamo, eticamente, diciamo, quindi seguendo il dettame della coscienza, Dio non negherà il suo aiuto, la sua grazia. Scusa, ma non solo, diciamo così, Dio genericamente, ma Cristo. L'azione salvifica, l'unico salvatore, certo, è Cristo, quindi questo modo misterioso, eccetera, è in Cristo, certo, che io sappia, perché se non mi sbaglio l'addomino è in Cristo, certo, appunto, però appunto è questo documento, cioè la Verbum Domini, Dominus Jesus. No, Dominus Jesus parla di questo, certo, sì, questo è tutta la grazia che noi abbiamo è grazia di Cristo, quindi è sempre grazia di Cristo, anche nel senso che lo Spirito Santo che riempie il cuore umano di Cristo, allo stesso modo plasma il nostro cuore, la nostra mente umana, quindi noi partecipiamo del modo di essere di Cristo sempre, quindi questo il punto è che questo può avvenire anche al di fuori della via sacramentale. Quindi la via sacramentale, questo ci porterebbe lontano, che non sminuisce l'importanza dei sacramenti, perché nei sacramenti è come se il Signore ci dicesse: guarda, ti metto davanti questa cosa meravigliosa, che quindi deve essere un richiamo per tutti a vivere i sacramenti, perché è un regalo incredibile. Però questo non vuol dire che il Signore abbia quello come unico modo. Appunto, quando non possono agire i sacramenti c'è questa... Esattamente. Ecco, c'era qualche... no. Forse c'era anche quest'altra cosa, quello che ricordava nostro padre, che prima di morire il Signore concede sempre quella specie di breve film della vita in cui ti fa vedere le cose oggettivamente come sono, perché uno potrebbe anche essersi oggettivamente convinto nel fatto male mentre l'ho fatto. In quella ricostruzione, uno vede il film della sua vita prima di morire, c'è l'ultima possibilità in cui puoi ancora, dialogando con Dio, dire di sì alla grazia o razzarti contro il tuo egoismo. E quindi questa è un'ultima possibilità anche extra sacramentale. Sì. No, i modi poi, ecco, anche questo penso che sia un modo possibile, ma penso che il Signore costantemente si rivolge in realtà all'uomo, forse in modi che a volte la persona stessa neanche si rende conto, però aiutandolo appunto a dire di sì al bene, a dire di no al male. E ecco, come avviene? Allora, se noi vediamo le cose così, Dio vuole stare in relazione con noi, lo aveva previsto da subito per Adamo e per tutta la sua discendenza, c'è stata una rottura di Adamo, Dio permette che anche noi nasciamo allora, in conseguenza di quello che ha fatto Adamo, privi di questa relazione con lui, ma la vuole costruire. È molto bella un'idea che vi riporto qui scritta, di quell'autore che vi dicevo ieri, Marcello Bordoni, un teologo, che fa capire come Dio stesso, cioè Dio quando crea, nel momento in cui crea, già vede, già conosce la caduta dell'uomo e già prevede l'agnello, Cristo. Ve lo leggo perché è una citazione che a me piace molto. Lui affianca due testi, Colossesi, l'inno dei Colossesi, dove si dice che tutto è stato creato per mezzo di lui e in vista di lui. Cristo è il principio e il fine della creazione. E Giulio Maspero, nel suo libro ultimo uscito da poco, quello per i soprannumerari, che sarà bello farlo comprare. È già uscito. È uscito in questi giorni. Creatore perché padre. Spiega molto bene cosa vuol dire che è fatto in vista di Cristo. In fondo in vista della nostra filiazione divina in Cristo. Qui non ce l'abbiamo più. Qui no, ancora no. No, quello c'è uno per Chetrino. Sì. Uno per Chetrino, quello dell'anno scorso. Comunque sì. Bordoni guarda questo testo in cui a un certo punto però si dice anche che lui è anche colui che è il Redentore, non è solo il principio e il fine, ma è anche il Redentore. Sentiamo questo testo. E poi un altro testo, no? Un altro testo della prima lettera di Pietro, dove si dice che Cristo è stato predestinato come agnello, quindi come Redentore, già prima della fondazione del mondo. E allora dice Bordoni, questo teologo, dice: il Nuovo Testamento, scusate che ho perso il segno, il Nuovo Testamento, pur contemplando il mistero del Cristo capo e primogenito della nostra umanità, quindi capo e primogenito, non ignora con la prima lettera di Pietro che Dio, per così dire, ha posto mano all'opera creatrice avendo sotto gli occhi il mistero dell'agnello immolato. Dio ha creato, aveva già in mente che sarebbe stato necessario l'agnello, suo figlio. Potremmo dire allora paradossalmente che il peccato, quello di Adamo e poi il nostro, fa tanto parte di questo mondo creato che solo lo sguardo di Dio, che prevede il mistero dell'agnello, permette a Dio la creazione di tale mondo. Cioè, non possiamo dire, no, il peccato di Adamo ha fatto sì che una parte dell'umanità sia ormai andata a rotoli. No, no, Dio lo sapeva già, ha visto l'agnello, ha visto la necessità di suo figlio fin da su, non solo come principio crea nel verbo e poi come fine, no? Ma anche come redentore, cioè ci sarà bisogno. Allora l'agnello immolato, dice, l'agnello immolato rivela un aspetto imprescindibile delle profondità creatrici di Dio. Cioè, come dire, se guardiamo le cose, se guardiamo Cristo, capiamo che l'intenzione di Dio sull'uomo è sempre quella di stare in relazione con l'uomo. E questa idea sua che c'è dall'inizio è resa ancora più radicale nel momento in cui Dio sa che l'uomo peccherà. Ancora più radicale, nel senso che Dio andrà fino in fondo per riprendersi anche l'uomo caduto. Quindi, cioè, questo ci mostra che l'intenzione di Dio è questa, non è quella di punire, è quella di salvare, sempre, sempre. Poi se l'uomo non vuole, se l'uomo rifiuta anche l'offerta della relazione che Dio gli fa, allora l'uomo potrà fare quello che vuole, diciamo, però da parte di Dio l'intenzione è questa. Allora, prima di vedere i motivi per cui possiamo intuire, provarci, no? La convenienza, che il peccato originale di Adamo, convenienza, abbia in noi delle conseguenze come quelle che conosciamo. Prima di andare su questo, vediamo un po' quella difficoltà di capire lo stato originario. Vediamo a partire da quello che ha provocato il peccato originale nella natura di Adamo ed Eva e poi quindi anche nella nostra. È facile, mi sembra, capire che la rottura della relazione con Dio ha prodotto per Adamo ed Eva una diventare semplicemente sottomessi alle forze naturali. Cioè, perché? Perché prima come poteva essere compreso il loro stato, la loro condizione? Stato di grazia. E con una natura che era pensata e realizzata bene, per cui forse non occorre pensare nessuna particolare proprietà per capire che la ragione poteva essere padrona dei sentimenti, cioè nel senso che poteva essere signore con quel dominio politico sui sentimenti, sulle passioni. Quindi fino a concepire lo stato dell'uomo come integro, in armonia con se stesso, mi sembra che non abbiamo particolari problemi, aiutato tra l'altro dalla grazia di Dio, su questo non c'è. Invece occorre di più per pensare come l'uomo potesse essere impassibile e addirittura essere esente dalla morte. Per questo occorre di più. Allora, io qualcosa già vi anticipavo in alcune domande di tempo fa, però l'uomo, Adamo, non aveva ancora l'immortalità in modo definitivo, non ce l'aveva già in possesso definitivo, come saranno i risorti, come è Cristo dopo la sua risurrezione e come saremo anche noi. San Tommaso, abbiamo visto, che dice che l'anima era dotata di una certa virtù data da Dio per poter rendere il corpo non corruttibile, ma non era una cosa naturale, era un dono particolare di Dio questo. Cioè, evidentemente l'unione spirito-materia che di cui era dotato il corpo, cioè la persona dei progenitori, non era ancora quella appunto di per sé stabile e definitiva per sempre. Possiamo pensare però che o per questa virtù divina che il Signore dava, oppure per una certa anche maggiore forza forse dello spirito sul corpo, adesso questo è difficile dirlo, effettivamente ci fosse comunque una partecipazione del corpo alla vita dello spirito più forte, quindi in qualche modo l'uomo fosse capace di non subire danni, di non subire. Ora, questa è una via per capire un po' lo stato originario. Un'altra, oppure possono essere a mio parere anche compresenti, è di pensare che nella relazione con Dio, così come era voluta, relazione di figlio con un padre, si realizzasse un po' quello che Gesù nel Vangelo tante volte dice riguardo alla preghiera. Se aveste fede come un granellino di senapa, potreste dire a questo gelso: sradicati e trapiantati nel mare. Questo lo farebbe. Oppure potreste dire a questa montagna: spostati. Gesù questo lo dice varie volte. Ora, è pensabile che la relazione con Dio fosse l'ambito naturale nel quale Adamo ed Eva potevano ottenere da Dio tutto ciò che era buono e conveniente, anche una certa protezione nei confronti, diciamo, delle forze naturali. E quindi io sono un po' incerto tra le due vie. Penso che questa seconda di una protezione particolare che il Signore dava sia senz'altro presente. Ritengo che anche la prima, cioè che effettivamente ci fosse un'unione spirito-materia, una compenetrazione maggiore che permetteva allo spirito di essere al corpo, di partecipare un po' di quella vita dello spirito, analogamente a come saremo da risorti, però non allo stesso modo, non allo stesso modo. E per quanto riguarda la signoria sul creato, sugli animali, su questo mi sembra che anche non sia in realtà così difficile immaginarlo, ipotizzarlo, proprio perché appunto anche nella vita dei santi ci sono stati vari esempi di una superiorità dell'uomo nei confronti degli animali e delle bestie che sono piuttosto sorprendenti, diciamo, per la mentalità che abbiamo noi e per l'esperienza ordinaria a cui siamo abituati, però in realtà sono fatti sperimentabili. Ecco, anche su questo una bella intuizione ci viene dallo stare di Gesù nel deserto, i 40 giorni nel deserto, con le fiere che lo servivano. Non è che per fare letture letterali del testo, però mi sembra che quella sia un'affermazione dell'Evangelista che non abbiamo motivo di pensare che sia che non sia vera, anzi senz'altro lo è. Per cui è come se in Gesù vediamo già un po' potremmo vedere un ripristino di quella condizione originaria che doveva esserci, di quell'armonia tra l'uomo e il resto della natura. Quindi a chi dice: ma è impensabile una condizione, uno stato paradisiaco originario, a me sembra che si possa dare due ordini di risposte. Da un lato, negare questo stato significherebbe negare che Dio abbia la possibilità di mettere l'uomo nel mondo in una situazione di bene, di puro e semplice bene. Sarebbe dire: Dio necessariamente deve mettere l'uomo nel mondo in una situazione in cui deve lottare, in cui deve soffrire, in cui deve... Ma no, le cose non stanno così. Il male non è necessario per far emergere il bene. Dio ha fatto le cose e poteva farle in un modo puramente buono e positivo. E dal punto di vista invece un po' più della, diciamo, della fisica del corpo, si può dire, se noi neghiamo la possibilità di uno stato originale, neghiamo anche la possibilità di quella risurrezione corporea di cui già abbiamo testimonianza in Cristo, che poi sarà di tutti noi, che coinvolgerà, coinvolge il corpo, la materia, dotandolo, diciamo, di una compenetrazione con lo spirito di un ordine superiore, diciamo. Io non dico, non credo che la situazione originaria dell'uomo fosse come quella dei risorti, anzi, senz'altro quella dei risorti è molto superiore, proprio perché poi l'immortalità sarà ormai definitiva, in proprietà nostra, invece che Adamo non lo era. Ed è venuta meno quando è venuta meno la relazione con Dio. Bene, allora, detto questo, poi se domani c'è qualche domanda su questo, magari potrò cercare di dare qualche ulteriore chiarimento, se posso. Soprattutto affronteremo la domanda del perché, appunto, se hanno peccato i progenitori, poi le conseguenze di questo, può essere conveniente che ci siano anche nei discendenti, pur non essendo in noi una colpa, però ci sono.